12 agosto, Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, una delle più celebri sante francesi, sposata e madre di 6 figli, ma rimane vedova. E allora si mette sotto la direzione spirituale di uno dei più celebri vescovi del 600, San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra, che la invita a dedicarsi alle opere di carità. Santa Giovanna di Chantal fonda l'ordine della Visitazione di Santa Maria, che si dedica all'educazione delle ragazze, alla cura dei poveri. Guida la congregazione con grande maternità e alla gioia di vederla diffusa in Francia e in Europa. Oggi le visitantine hanno quasi 150 case con oltre 2000 suore in ogni parte della terra.